hola, 1, 2, 3, prova radio, cambio. Claudio, c'è il volume basso, scusa, ciao. Infatti, te solleva il volume. Stavo regolando perché si va con fischi, se c'era, era troppo alto il coso, come si chiama, la, e forse ancora troppo alto, ma chi? È troppo alto, sì. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. Adesso ecco, non ce l'ha però. No, ecco, l'ho tolto. No, vabbè. Hola. Andava bene, così, non mi ho messo, ecco non mi ho messo, ora, così va bene, guarda, 1, 2, 3, prova. Sento una risonanza, una cosa metallica. Sì, vabbè, quello lì è il microfono. C'è la capsula ceramica, se ti tiro la capsula ceramica, non ho questo problema. Ceramica, la palma. Gli astatici sono tutti con la capsula ceramica, Claudio. Tutti con la capsula ceramica. Che risaputo. Infatti si sente quel metallico. Però va bene la radio. È ottimo. Passa sul 30 che c'è la Franco Astintino, che se può arrivare a voi. Sembra passarsi. Con quell'antenna. Ero in campagna stamattina, sto avendo alcune cose da fare. Mi esce un po' bene con l'antenna. Però quella non è. Ma io non la ricordo quella. Io mi ricordo quella con la molla. Ehi, me la ricordo anch'io, che sembra un po' quella della finanza, quella che hai visto. No, lui c'è una lunga e dritta, capito? Tutta caricata. È una bomba. E c'ha lo stilo regolabile in punta, capito? Ehi, gli ho dato il piolino stamattina che ce l'avevo io con l'antenna. Cavagava. Ce l'avevo anche io, infatti l'ho detto, se ti serve ce l'ho io. E ce l'ho detto bassa sotto all'erbo, dicevi. Andiamo a parte. Ma che cazzo fai da sentire? Per la sorella. Ah. La sorella, gli ho capito, da Pinuccio. E ci sono andato ancora a casa. Cappa, rimane dietro quell'albergo, come si chiama? Se non mi viene il nome, quello rosso. Dietro Capo Falcone? No, mi ha detto un altro nome, non me lo ricordo. Roccaruia. Cavagava. Vabbè, comunque, adesso dovrebbe andare bene, c'è un leggero eco, la radio è bella forte, la sento anch'io perché c'è il parascolto. Sì, vabbè, ottimo per la truppa, va bene. Cavagava. 27.075, allora, scusa un attimo. Ecco qua, ecco là. Questo cos'è il gas, no? No, questo qui è il Cobra S. Quello piccolo? No, quello grande. Il grande esclavo. Ah, se ne hai due di Cobra, ne hai uno piccolo e uno grande, qual è quello? Quello grande è il GTLX. Sì, quello grande. No, è l'essere. GTLX, quello mostriciato con la radio, sono molto bene, voi no, non avete avuto modo di provarlo come ho provato io, ma in 10 metri è una belva con la radio, invece se è una belva, già io dico una belva. A Sentino le arrivo 9:20, non ti dico altro, a Franca. E con quanti watt? Con i watt dell'apparecchio. Beh, normale. Stintino, se vuoi togliere lo smitter io a Stintino è. Proviamo sul 30 se c'è Franca. Prova. Attento, Franco California. Claudio, ci sei? Sì. Io sono qua, io sì. Anzi, Santiago non ti arrivi, che sei con lo smitter. Sì, Mazzecco, bro. contattino. Non ho avuto modo, vabbè, se non lo è quella persona là, no? Ma chi lo è? Ci vuole, basta che ascolti con un K e metti lo stesso segnale, non sarà una cosa perfettissima, ma almeno più o meno è così. Ma lo devi fare a casa tua, già non lo puoi portare a casa degli altri, io ho la ricezione diversa dalla tua, c'ho segnali diversi da te. Lo devi fare lì a casa tua se vuoi una cosa fatta bene, capito? Bisogna, per dire, se tu c'hai il Galaxy che è preciso, no, non ho dubbi, devi prima attaccarti il Galaxy quando c'è qualche ora, tanto quello lì te lo apri, te lo tieni aperto, ti guardi per dire quanto sto arrivando io col Galaxy e regoli il Cobra uguale al Galaxy. Poi vabbè, sì, lo dovrò fare, prima o poi lo faccio, come ho fatto la LC al 2009, faccio questo. Adesso poco fa ho fatto la LC al 2009. No, perché se per dire lo dai a me, io te lo faccio, però poi quando arrivi lì magari i segnali sono diversi. Puoi fare a casa tua, con la tua antenna, se no è un casino. No, se tu lo regoli con la tua antenna, per dire io parlo e tu regoli, praticamente deve essere la stessa cosa, perché con la tua antenna la ricezione, la mia ricezione quando parlo io, guarda, devi arrivare 9.20, 9.20 metti quello, ed è giusto, come arriva 9.20, quando lo porto a casa, i segnali dovrebbero essere tutti giusti. Ma poi i tuoi vicini magari sono più forti, secondo me è meglio regolare lì, c'è da regolare lì, con la tua antenna, la ricezione tua, perché sì, tu, io posso regolare il tuo segnale qua, però io poi a te, tu devi regolare i segnali degli altri, non il tuo qua, no, se no è troppo basso, devi uscire, tu devi fare la ricezione tua, il segnale degli altri, il segnale mio verso di te e quello degli altri. Ma devo sapere anche tu con cosa stai modulando, se stai attaccato, se sei liscio, perché magari tu un giorno attacchi, un giorno non attacchi, capito? Per avere segnali diversi. No, facciamo la prova normale, io sono normale già, io sto usando il Galaxy con la potenza sua, io ho 10 watt modulati quasi 20, figurati, 18, c'ho dei picchi di modulazione allucinante a sta radio. KK, quindi il mio segnale è sempre questo, sarà sempre questo, non ho un'altra radio, 430 non ce l'ho più, non c'ho più niente, non c'ho il Galaxy, l'alimentatore e la colonnina al 430, basta. Ho il pane più 3 e a fianco c'è l'MC60 che però è staccato, quindi non ce n'è problema, quando lo devi fare me lo dici, questo è il mio segnale, non cambiano. Sto letto che io ho staccato tutto, già ho svuotato tutto qua, tutte le radio sono al museo carta, l'armadio è vuoto, gli amplificatori, tutte le cose mie personali le ho già portate via, non c'è niente già, solo la radio e basta. Andare, sì. Ma io basta che si attacca il gas, per dire, adesso quando arrivi tu, lo so guia. Prendere quel phone, fare la foto quando c'è il gas attaccato e ti prendi i segnali. Stai un attimo in quel rischio, quando c'è quel show, fai la foto, come ho fatto io, anche io ho fatto così, capito? Ti fai... perché anche questo quando l'ho preso era, lo Smith non era preciso, ho fatto la foto al, avevo il 140 ancora, ho fatto la foto al 140 che era bello allineato appena arrivato dal centro assistenza e poi mi sono fatto questa e li ho messi tutti uguali, arrivano tutti perfetti come col K, capito? Così vi fare tu. Oh yeah. Sono con Galassi, aspetta anche quando segnale. Guarda, io sempre così modulo già, non c'è problema. Se poi qualche volta trovo il segnale leggermente più basso, vuol dire che sto usando male la potenza minima del Galaxy, capito? Però questo è il mio segnale. 9.30, sì. 9.30. Ma stai pompando? No, faccio assolutamente niente. Ti ho detto 10 watt di portante bianca, quasi 20 modulati, 18. Ciao ragazzi, ciao Bobbetti. E a lui quando avessi, anche non andare a Ferrari. Ottimo, ottimo, poi mi piace che c'è una bellissima recessione. Non me lo ricordavo così, sinceramente. Bello, bello, bello, bello, bello. Mi sto comprando la Danilo, me l'ho fatto provare e l'ho preso subito, immediatamente, nuova, nuova, sia dentro che fuori. Ma l'hai riverniciata quella? No, no, no, non ho preso niente. I maniglioni ho verniciato. Erano, c'era qualche graffietto, forse, spostandolo, facendolo con l'anello, con cose così, capito? Basta, è nuova, nuova, nuova, proprio nuova, di fatto. Sia esternamente che internamente. Ho visto che sono stati messi i led bianchi al posto di quelle lampadinette gialle, ed è molto bella anche perché si vede bene. Non ci sono... non mi metto neanche occhiali per vedere. Bella bianca la luce. Piace gli occhiali tu? Ma non le ho ancora cambiate le luci. Quando si fumano le metto. Ehi, no, se le metto blu già non vedo niente. Bianche, bianche. Tutto bianco. Avevo provato il DAC con le luci blu, era uno spettacolo bellissimo, molto molto bello, però no, non volevo gli strumenti, allora ho messo le sue bianche. Ah. Adesso via, ho acceso il 3009, ascolta, voglio provare il 3009 per come esce di radio col microfono normale. Prova, prova, ricordati a spegnere gli altri però, eh. Prima di accendere le spegnere tutte. Oh, Francolino, Francolino, Santiago Nova stai arrivando, dove sei? Ancora a Stentino? Arrivi, arrivi, quasi Santiago Nova, sì, Radio 5, avanti già. Guarda, questo qui è il microfono normale del 3009, come va? Radio 5 perfetta, normale, bella chiara. Cavallava, vabbè, ci posso attaccare anche qualche amplificato. Già va bene, già va bene. E me fra, com'è? T'ho a posto? Arrivi, arrivi, Santiago Nova, ti ho detto Radio 5. Maestro Gianni, ti ha regolato bene la stazionaria con l'antenna. Cosa hai detto già? Che l'abbiamo regolato bene le stazionarie. Ehi, stazionarie, la tua stazionaria, so. Esce bene quel 68, se ti ricordi, fra. Due battaglie ha fatto il suo 68, allora volevamo buttare via tra te, miliardino, mettitelo a posto. Quanti anni sono passati? Si è agganciato Gianni, sei saturo, eh? Saturo sono così. Eh sì. Quanti watt c'ha quel 3009? 5 watt. 5 watt, devi vedere di me, io non riesco a capire, cazzo, io al mio, ai due miei che c'ho, al piccolo le do 5 watt di portante, quasi 10 modulati, manco te ne accorci, perché non lo senti neanche, l'altro addirittura anche 10, 15 modulati, cazzo, io ho 5 watt, non ci ho compreso che satureggia. Non lo so, comunque questo qui non è mai stato toccato, l'ho alzato per appena da lì e basta, tutto lì. No, questo qui è quello nuovo che mi è arrivato, tanto me lo sono venduto, ma è giusto il ventiero me l'ho preso nuovo. Che se ne ha fare che hai fatto a questo 150 euro? Era nuovo, nuovo mi dà, non era, però io sono fatto così, nuovo mi piace, nuovo di zecca. Io ho detto, l'hai venduto bene, 150 euro, considerando che costa 170 nuovo, anche se era nuovo, però se per usato era. E beh, fra, e allora, stai rientrando? E io a Caralupo, sì. Caralupo, già lo so, per Valentina, ci ho lavorato anche mia figlia con Gianfranco, già ci conosciamo. No, salutalo allora se lo vedi. Ci ho lavorato l'aria quando era... subito dopo aver finito la scuola, vai, periodo estivo, ho lavorato lì. E poi era entrata al Mac. KK, mi ascolti bene, fra, sì. E io con l'omologato come ti arrivo, fra? Questo qui è con l'omologato senza attaccare niente. KK, e già va bene. Si fa sentire lo stesso, va. Ma l'altro c'è perché fischiava, perché non c'è la colonia. esce bene di radio, c'è una bella radio qua 68, però per il microfono normale stai andando una cannonata. E io 10 watt sto usando, mi fa 10 watt di portante, quasi 18 modulati, va bene. E tu c'è Santiago 9 pieno. Avrai 70 watt modulati, 60-70 watt, anche a me va 9, ma no, ma qui ho per stentino, lo vedo stentino, non c'è problema, bello aperto, gappa. Sì, ma a favore vuole più di portatore di stentino, lo sa. E io vedo sia produttore di stentino, vedo l'eliche, quindi no, non c'è problema. Lì sono apertissimo, e a Santiago 9 mi sta arrivando, tu ce l'hai molto più davanti di me, ma io lo vedo lo stesso. Non problem, Santiago 9, Radio 5, bella chiara, anche amplificata un po'. Sì, non è la capsula originale quella è rotonda, grande, però è di un altro microfono. Anziché essere dinamica, è ceramica anche quella, spinge, quella è la capsula del... non mi ricordo, dai, di un microfono della Intec, comunque di quelli amplificati. E infatti c'è i picchi positivi anche. E in macchina non c'è, vuoi bonifici, quella è la radio da macchina, non è che ce ne vogliono altre in macchina. Numero 1 la RAN 48 in macchina, anche normale, ho modificato, è sempre il numero 1. Santiago 7, buono, cazzo buono lo stesso. Oddio che picchia, da 7 vai a 9. Ottimo per la truffa. Ottimo per la compagnia. Adesso con l'hai provata è pronta per me. E poi devo cercare già, diciamo, una cassetta piena di pezzi di antenne, se ti trovo una... Il mozzo, quello a farfalla, se trovo quel mozzo a farfalla, te lo do, così te la metti, anche quello stilo che c'ha lui, l'altro stilo che c'ha, quello funziona bene, caricato lo stesso, quello nero. Sì, vanno bene tutte quelle. Ora mi pare che era di Pinuccetto. Di Pinuccetto? No, Pinuccetto c'ha ancora quella che gli ho dato io. Ci siamo visti da poco, ha cambiato anche macchina, c'è la macchina nuova adesso. Ma il camion non ha macchina più. No, la furgonetta rossa non ce l'ha più, adesso ce l'ha comprata nuova, bianca, però ancora non ha messo niente. Ah, ma una non ha detto che era di Pinuccetto. Ah, quella corta c'ha, già va bene anche quella. Va bene anche quella, no, quella lunga ce l'ha, la deve piazzare, quella uguale a quella che c'è tu, quella lì, quella la deve piazzare, però ho detto che adesso non piazza niente, intanto non è che le serva, capito? E io ora quella, quella corta l'ha data a te, ma va bene anche quella corta, esce un po' bene anche quella lì, adesso bisogna trovare il mozzettino a farfalla. Franco, dimmi se la radio distorce adesso, che ho attaccato, guarda, è lontananza. Va. E quanto è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fra, io sto già lontana più 3 con Galaxy. No, ma non è distorta già, è proprio come ha detto Franco, rimane chiusa, amico, capito? Però non è satura. Sta usando il microfono normale lui. Cupa, ciao, buonasera, Marco Scorpio. Ciao Marco, buonasera, Cupa la mia. No, cos'è la tua? La tua va benissimo, alla grande, amplificata, tra classica modulazione tua con microfono da tavolo. No, quella di Gianni, doppio RU, è molto nasina, e io sono in macchina, sono sulla 131, è cupa, non è squillante, è sempre un po' vattata, impastata, non è chiara, non è bellissima, però si ascolta e si capisce bene quello che dice, per carità, però questa è la realtà. Franco arriva bene, anche quello è Franco, è un po' cupa, ma un po' più squillante, diciamo. Questa è la situazione. Buonasera a tutti, Marco Scorpio mobile in all'importo di Sassari, 131. Ciao Marco, ben sentito, buonasera. Ciao carissimo Gianni, ciao, buonasera. Ascolti, là, io sono sulla rientro di Sentino, all'uscita di Sentino adesso. E ti ascolto anche a te, Fra, non c'è problema. Sono alle porte di Sassari, 131, ma sto saltando Sassari e direzione ai punti, capito? This is the story. Avanti Claudio, fa girare. Giappa, va bene Marco, va benissimo. Via già, no adesso già sei tornato tu, dai, quella tiene la discosta alla radio, continua a modulare con questa che è meglio. E beh Fra, con questa come va? Questa qui è il cover. Questa è tutta un'altra cosa. E qui già sembravi dentro un maratolo con quell'altra. Lo so, ma l'altra c'ha il microfono normale, devi contare anche quello. Se li metti un microfono amplificato e sembra anche quello, anche se 3009 è risaputo che sembra. C'è sempre un po' di effetto camera, ma a mio avviso così è molto più chiara, è un casotto, in macchina è veramente chiassosa in quell'altra situazione, così è un po', è più chiara, è molto meglio, perché magari da casa uno riesce a sentire in maniera differente, ma in macchina era un po' chiassoso. Va bene, va meglio così, per quanto mi concerne, come se volevi delle indicazioni sull'emissione. Più squillante questa, quell'altra, lasciala come seconda radio nel cassetto, che ha detto Franco, che comunque è sempre utile. Sì, diciamo che questa qua è una super radio, dai. E confronto all'altra, l'altra è noia. Dai, questa qui è il cobra esce con 30 watt, dai 30 ai 50 watt di piccola. Sì, questo è l'asco, si ammassi anche va a me, per quello che è qui, l'ascolto qui da me, con la radio che ho io, anche se è un pochino più bassa è ancora più chiara. La microfonica, la microfonia? Sì, l'amplificazione già, c'è un effetto camera importante così, c'è molto effetto camera, c'è un rimbombo effetto camera molto esagerato, mentre, non so, la voce di Claudio è squillante, amplificata, ma chiara, nitida, questa rimane molto rimbombante con un effetto camera, La definizione è corretta, è questa. Effetto camera che non migliora la qualità della tua radio, che magari probabilmente se lo abbassi un pochino forse diventa più piacevole. Anche se l'ho abbassata, guarda se va bene. Adesso dovrebbe dare anche i picchi di popolazione su alti come l'ho abbassata. Non è apprezzabile. Qua, io adesso sono ai punti, non è tanto apprezzabile. Vabbè, fa niente, lascia pure così, antenna a Claudio, scendo un attimo a controllare la situazione qua, riprendo fra qualche minuto, riprendi Claudio a far girare, tiro l'antenna, forse aspetta Franco, se mi ascolti, qui dai punti immobile a te. Ciao Marco, ti ascolto, 5-9 più 10 qua, dai. Io sono sulla camionabile, come se mi stai ascoltando lì? 9 più 10 anche io, bene, forte e chiaro. Benissimo, c'è problema, fra, ma stai rientrando o uscendo o andando fuori Sassari? No, sto rientrando da Trentino. Fortissimo, non c'è problema, arrivi forte e chiaro. Va bene, fra, ciao, ben sentito, buonasera. Claudio, a te l'antenna. Ciao Parco SL, molto bene, cifra arrivi benissimo anche a me, ottimo segnale, oltre il 9 più 10, radio 5 perfetta, sì già te l'ho detto, va bene Marco, dai, siamo qua, scendi pure, siamo qua, te l'ho detto, è molto rimbombante, io sento un effetto cattedrale allucinante, dobbiamo fare ancora qualche regolazione, se vuoi proprio che sia perfetta, perfetta, ti ripeto, va bene, aspetta un attimo. Franco, riprendi tu, ho abbassato la radio, guarda come va. Già la radio ti ascolto bene, già. Poi adesso è 5, prima era 9, l'ho abbassata un bel po'. Ma così va bene, è inutile che la ce la alzi, ribomba troppo. Cava. Andavi, c'è chi piace alto, c'è chi piace bassa, bisogna accontentare a tutti, dai. Vabbè, comunque, io l'NC me l'ho messa a posto là. A quanto l'hai messa? A metà. Ah, vabbè. Era al minimo che l'ho messa a metà. Ma poi la aumentare ancora troppo, capito, no? Oltre alla metà pure la puoi aumentare, portate non arrivi a massimo. Sì, vabbè, va, la lasci così, fra. Non devo stare a aprire di nuovo a fare, no. Anzi, volevo mettere le luci blu, poi ci ho ripensato. Ma prati te li hai? Io sì. Io sapevo che andavo a comprarti le luci blu. Sono andato a lavarmi la macchina, ero lì vicino. Già. Io volevo passare a prendermeli. Ma mi piacciono più queste qua, già. Mettiti quelle. Io mi tengo le blu. C'ho di più. Cosa? Che mi piacciono le bianche, c'è bianca, azzurro e verde. Vedete, le bianche sono belle, bianco ghiaccio sono. Ma infatti devo fare perché l'altra non mi si tuna, capito? Devo aprirlo e vedere perché. Non ci vuole molto, capito? Le tagliature qui. Ma infatti. Bisogna mettere la fila unica, poi mettere, come ho detto io, quella roba là, e fatelo io. Quella striscetta là. Solo che io quando l'ho piazzata sicuramente ho tagliato un led, capito? Adesso glielo puoi rimettere. Non ce l'hai la striscia che ci arriva. Devo guardare se mi basta, non lo so. Adesso vedo. Se no ne metti due e le unisci col filo. Adesso vedo, cosa potrei fare? Se no rimane così, non me la fai nulla. Deciso sempre, l'eterno indeciso. Devo aprire, riaprire. Vabbè, lo fai con tranquillità, non è che devi assillare, lo fai con tranquillità e lo fai bene, una volta che lo fai bene, poi una volta che comprichi solo fuori, li verniciamo. Cava. Sempre bene, mi ascolti, sì. Sempre Santiago 9. Non è calato niente il segnale, no? No, il mio da sempre 9, questo qui più di 9 non arriva, è secco. È tarato a Santiago 9, Radio Gianni, scusa che ora il telefono, è Marco sceso che doveva fare QRL. Cabagallo. Già va bene, dove sei arrivato, fra? A Trunco Reale, gioco, va. Ammazza, te ne varia, 9:15, sì. Trunco Reale, all'entrata delle curve di Trunco Reale sono, in mezzo a queste casette che ci sono qua. 9:15, radio 5, perfetto. Non è amplificata già quello del microfono, è molto chiara e forte perché è stata cambiata la capsula, ma è sempre una capsula di un microfono normale, anziché essere del Midland, è una capsula dell'Intec, capite? Avranno messo qualche compressorino, Ma l'avranno messo loro, se era la mia, chissà radio, il microfono gliel'ho dato io, quello nero, quel microfono nero della Midland, gliel'ho dato io assieme alla radio, cosa hanno messo, non l'ha mai toccata a Franco, era la mia quella radio, l'ho regalata io a Franco 5-6 anni fa. Tu hai mai toccato il microfono, Franco? Il microfono originale c'è, quello che avevi fatto che c'è, il coso nero. E la carcassa grigia. Esatto, c'è il tappone e la carcassa grigia, quello lì te l'ho dato io, non c'ha niente al microfono. È stata solo sostituita la capsula, capito? Anziché essere la capsula originale dell'Alan 48, del Midland, quella è una capsula del microfono originale Intec, sempre originale però e non amplificato, perché cambiava l'impedenza e quella spinge un po' di più, ma sempre capsula originale, non è che è una capsula, il microfono è stato modificato, non è stato modificato niente. È la radio che c'è bene. Allora quella radio io senza lineare l'avevo portata con Gigi Vulcano, già vivo e vegeto, glielo puoi chiedere, me l'aveva fatta lui, l'avevo portata a 15 watt. Senza lineare, poi avevo messo il lineare in macchina, il 747 se ti ricordi, nella, boh, non mi ricordo se era la Citroen, la Batimobile che poi avevo venduto, e allora l'avevo abbassato a 4 watt, è sempre così è rimasta. Ma infatti, è così. C'è il tastino che ti dà, quel tastino là mi sa che dà 4 e 10 watt. Esatto, la modifica che mi ha fatto Gigi, dove c'è la NL. Esatto. La modifica che ha fatto Gigi, 4 e 10 watt. Ma a 10 watt c'ha dei picchi modulazione a 15 watt, capito? Però quando lo usi con lineare la devi mettere a 4 watt, e quando lo usi senza lineare lo metti a 15 watt. Infatti adesso è a 4 watt. Esatto. Va bene, no, una bella radiolina. Una bella radiolina, infatti te la vuoi, tu te la 8, te ne dirà due, mettetela in macchina, perché intanto io l'ho in 48, in macchina non, cioè macchina non ne avevo più impianto, e tenerlo a casa no, non fa perché prende un sacco di colpi. Eppure non le prende colpi in macchina, è abbastanza silenzioso. In macchina, ma il 68, ma lo prova il 48, vedi. Ah, così, il 48, questo è il 68. Ma infatti io ci avevo il 48, ti ho detto. T'avevo dato a te il 68 e mi avevo preso il 48. L'avevo messo in macchina, ma c'era un abisso. Poi l'avevo messo a casa a provare, c'era un abisso lo stesso. Allora l'avevo dato, ho fatto cambio con Claudio di Muro, se l'avevo dato l'Aran 48 e lui mi aveva dato l'Inuit, capito base? Perché intanto io non le potevo usare, nuovo, entro la scatola, microfono originale, cavo originale, staffa, tutto gli avevo dato, nuovo, perché era nuovo. Il 68 quindi esce meglio del 48. E glielo dico che esce meglio, ma soprattutto non prende colpi come il 48. Il 68 non lo fanno più. No, 68 no. A parte che mi pare che pesa pure di più di un 48. Poi è forte, come componentistica è molto meglio. Molto, molto meglio. Vabbè, hanno fatto prima quello del 48. Molto meglio. E... è pesante, la radio che è pesa un bel. Dabbiamo, non ti preoccupare, già la conosco pure la radio. Poi l'avevo vista anche Gigi, a Gigi piaceva molto il 68. Se 68, era 68 modificato, Colt, ci rubano in culo il 48. Poi tu c'hai 40 canali lì, non ne hai 34. 40 canali, questo c'ha 40 canali. Esatto, perché avevamo cambiato il coso con Gigi lo stesso. Tolto quella 34 e messo quella 40 canali. Esatto, questo c'ha 40 canali. Più c'ha il canale 45 che spinge un casino. Si conferma, vai già, riprendi. È così, già lo so. Va bene. E la voglia ce l'hai, ne avanza, spinge bene, non pensavo che usciva così forte. Dove sei arrivato? Adesso sono all'entrata di Libunti. Andava. 9, sempre oltre 9.10, sì. E già spinge bene, già. C'è un ottimo impianto, un'ottima antenna, va bene. Rimane, non va a vedere nessun muro, sul muro, da Tintino, verso la Duca. No, ma già... Cazzo, settimo sentiero 9, lì da vicino a casa di tua sorella, già lo so, vi abita. Dove ci sono i parcheggi? Io ero lì dietro, capito? Dove c'è la casa? Dove c'è l'ingresso? Là? Sì, ci siamo andati molto, non ti ricordi. Gappa. Va bene. E cosa vuoi che ti dica? Gianni, che fine hai fatto? Dove sei? Con chi sei? Sei per sé? Sono qua. Sto carezzando a Taisolino. Ehi. E il cane ha preso ce l'hai fra? Ma Filippo l'ha giocato con me, Gucci. Oh, ma lì in macchina? Eglia. Chi sarà dormito, poverino? Mi cugliato con la mia sorella oggi, per carità. Bravo quel cane. Bravo e obbediente. Cazzo batti 5. Hai visto già mentre vai del cane già di Franco? Sì che l'ho visto. Cazzo batti 5. Hai provato con Filippo a battere 5. Si boggia, come il tassano anche a giacca batterla. È intelligente. Ma Filippo è più pesante, non reggi, non sci. quello è così, perché c'è anche mia sorella il cocker, però è marrone, come mia sorella. Come stai? Questo è il pollo fettivecchio, come ti direbbe c'è la catrea, vai se siete lei. Cazzo, è poca l'offia, laica si chiama. Cava, cava. È il nome tipico delle femminucce, dai. Ehi, ehi, e anche il Collie, l'esce che c'aveva mio fratello, si chiamava Laika. Gappa gappa. Poi ce l'ho preso l'altro, gli è morto anche quello, boh, non ha pigliato più. Basta, finito con i cani, no, non ne vuole più sapere. C'è che è una sofferenza enorme. Figurati, a me che hanno tocca a me, cazzo, mamma mia. Franca, dove ci è arrivato? Sono al semaforo di Ribunti. Ribunti! 9.20 si fra semafori punti. KK, c'ho al semaforo di Sant'Orsola, dai. 9.20 si, radio super 5. Va bene, bene, bene, va. Andava bene, andava bene. Ha voglia che si intende. Magari che succede. Io vado a bassare l'organo, sempre isso, isso che prende l'organo, ne ha andato. Questo è il solito quello che rutta, fischia e fa le pernacchie già. Ma la sappi lì. Santiago 7. Ma finisci la cazzo, devi puoi andare, boh. Devi puoi andare che sotto. Che sciocco sotto casa tua, devi puoi andare. Eh? Sono sotto casa tua, dimmi dove vuoi andare. Coglioni, cazzo, per carità, cazzo, gente guatta, cazzo. Dove sei arrivato, fra? Sto guardando una cosa, un attimino, dai, fammi una bassa. Via. A me, fra, rispondi. C'è 10, sì. Attenzione, canale 10, prego. Sono qua, già sono qua. Al telefono sì, là. No, già chiuso, no, già chiuso, è Franco. Era lì nella zona della portante, mi stava dicendo alcune cose. Ha sgavato chi era, la cacca. Sì, bella zona, ma questo non avevamo dubbi che era dalla Peruccia. Cava, cava. Oi, oi, oi, oi. Se vuole con cui. Vabbè, cappa di Roggero. Quindi è arrivato Franco. Sì, stava parcheggiando, adesso si fa la doccia, se non disturba. Ecco, già entra a farsi due chiacchiere. Ehi, aspetta. Sezione 10, c'è qualcuno? Sono qua già, Beh, classe. Ehi, ciao. Beh, non c'è nessuno. No. Prego. Avanti, prego. Ok, ciao, ma ci vediamo da questa, buonasera. Mi serve un controllo radio e segnale. La radio te lo posso già dire, 5 è buona, è ottima. Dimmi, controllo segnale, dimmi un po', prova a parlare. Allora, 1, 2, 3, prova a radio. Vedi un po', 1, 2, 3. Segnale 9 più 15. Ciao, Massimiliano, lascia la portante. Senti quello che sento io, Roma. Un rumore di vento, la verità di sento. Non so, cos'è quel rumore che si sente? Ditemelo voi, io non lo sento. Schiaccia la portante. No, no, poco fa non c'era, adesso c'è un... Io sento tipo un rumore di alternata, qualcosa del genere. Se non c'è il vento le attaccate, buh. No, ventole attaccate non ce ne sono qua. Che dai giorni? Non lo so. La potenza com'è? Tutto al massimo, l'RF Power come ce l'hai tutta manetta? No, è tutto chiuso così, guarda un po'. No, no, mettilo al massimo. Ma voi al massimo, claro. C'ha 2 watt, c'ha più che 30 watt, c'ha radio, cosa al massimo? Io sento il rumore dell'alternata allora. Prova, vabbè. Senti, metti, senti, lascia la portante. Pensate, ma sembra più una ventola a me, come che ci sia qualcosa, non è che qualcuno una trattata sta usando tipo aspirapolvere o qualcosa del genere, se non hai ventole. Ma è l'aspirapolvere, non c'è l'aspirapolvere qua. Adesso no, adesso no, adesso non si sente più. Il microfono, Massimiliano, stai usando il tarne? Ehi, acclama, non era avvitato la rondellina, vai, adesso l'ho avvitato. adesso non si sente niente. A quanto ce l'hai il microfono? A uno, al primo pallino. Mettilo al secondo pallino, non al primo. Guarda un po', così al secondo pallino, uno, due, tre, prova. Cioè, se tu lo abbassi, adesso sì, adesso vabbè, vero vabbè. Prova a parlare, ti dico se puoi alzare ancora un po' di più, perché Claudio è molto più forte come intensità di modulazione. Eia, va bene. Guarda un po', a me interessa la mia di voce, non quella di Claudio. No, alzare, non sto parlando di voce, sto parlando di intensità. Lui c'ha la voce più grossa naturalmente. No, se puoi alzare, puoi provare a alzare un po' di più il microfono. Guarda un po', così a metà. 1, 2, 3, prova. Prova a parlare. 1, 2, 3, prova il radio. 1, 2, 3, prova. Guarda un po'. Lascia così, già va bene, dai. Il micchichino al massimo, è il massimo idea. Eia, però dall'interno è chiusa, capito? Non ho messo neanche le vite perché tanto devo verniciare, quindi ho solo appoggiato così, attaccata così, dai, veloce. Ho capito, ho capito. Già va bene, dai. Per me puoi tirare ancora più su, poi. Guarda, adesso l'ho tirata poco più di te, adesso vedo anche lo Smith che va a fare le batte giù. Non si deve andare, per lo meno andare a fare le batte giù, ma io non vedo lo Smith, io vedo la radio. Per me così va molto meglio. Guarda, l'ho tirato un altro pelino più su, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Va bene, per me è ottima. Cappa. Va bene, Robè, per te può andare così o troppo? No, non è troppo, teoricamente puoi ancora salire un pochettino come livello, non stai distorcendo, sino a quando non distorci, solo l'avrei detto, prova a sollevare ancora un peluzzino. Allora, così è al massimo, guarda un po', 1, 2, 3, prova. Anche così va bene, non distrucci, non sei nel limite rosso. Ok, vabbè, io avevo un bel travaglio domani la chitarra radio. Mi pare più per arrivare, perché io con 3 più 3, dove c'è il primo puntino dello 0, era tra il puntino dello 0 e il primo puntino, in mezzo. Se superavo quello, addio. Addio, con questo sono a metà e la lancetta sta andando già per i fatti suoi. Devi farle qualche cosettina, va. Comunque va bene, eh. Ottima modulazione anche così, ma la voglio sentire più spinta. Sarà fatto, non c'è problema. Tu là, o sei troppo vicino, se no devi abbassare un peluzzino. Io non sono vicino, ti ho staccato, ti ho abbassato anche la potenza, non staccato. Perché se no ti vado in saturazione, quindi sono con 8 watt modulati 10, 30 cm dal microfono, più di questo cosa vuoi che faccia? No, se non alzi troppo la voce riesci a rimanere nei limiti. Lo so, la mia voce è da orco, cosa vuoi che faccia? Ce l'ho metà io questo microfono, già spinge, già va bene, ma spinge anche la radio parecchio. Cos'è il microfono? Cos'è il Tanner questo? Sempre Tanner più 3. Ehi, adesso va benissimo, una bella modulazione, molto forte. Sempre quello il microfono, non si tocca, è oramai inchiodato qua, gli ho messo la colla, è una scrivania. Vero Massimiliano? Positivo, va bene, va bene. Ok. Sì, va benissimo. Adesso mi sono funzionato ecco. Oh, 1, 2, 3, prova. Cazzo che è questa, un cazzo una cattedrale, basta. No, vabbè, no, non mi interessa di che secco, gli andavo così. No, io l'ho più serrato da dretto, perché guarda, io te l'ho fatto noi qua. Così è sollevato, qua. Proprio no, non serve a niente. Figlia, va bene, va bene. Ma con la luce ha giovato ancora, eh. Allora, vediamo un po'. E se io aumento un pochino così, tipo alle ore 9, meglio va la radio, vabbè. Sei sempre entro i limiti, non hai problemi tu di... Puoi tenere anche così, no? Non stai distorcendo. No, ho aumentato leggermente la potenza, leggermente, non assai. No, non è cambiata niente la radio. Il segnale è cambiato? Ti voglio fare tre passaggi, Roberto. Fammi le prove, adesso è le 9 più 15. Allora, questo passaggio è con i watt tutti chiusi, ok? Questo passaggio è con il power a metà, questo passaggio è con il power al massimo. A me non mi cambia niente, sempre 9 più 15. Ah, ok, allora lo lascio così, ha fatto un bel lavoro. No, no, va bene, va bene. Io ho 8 watt modulati 15, watt ho gonto. Aggiungo il doppio, se lo metto al massimo arriva a 30 watt modulati anche questo. Però non posso, abbasso sempre una volta che entra Roberto, perché altrimenti mi deve attenuare, siamo troppo vicini, capito? No, così va bene il segnale, con questa potenza 6950 non ho nessun problema, quando sollevi appena appena devo attenuarti i 20 dB, se no mi satura. Va bene, va bene. La ricezione com'è, Massimiliano? Stai ricevendo bene? La bomba, va bene, va bene. Sono contento anch'io. Molto, molto, molto, molto. Gappa, va bene che va bene. Avanti, Roberto. Ma devi andare a lavarti, Massimiliano. Sì, sì, era giusto una prova così, dai, se mi confermate che è tutto a posto, vado e mi lavo, là, ti ho mandato una foto qua. Va bene. Lo smitter devo calare. Ma che radio è, Massimiliano? Un Saturn. Saturn, ecco? Sì, ja. E il microfono cos'è? Un Turner più 3B. Quindi le stesse condizioni di Claudio, certo. Positivo. Sì, io non, già sta andando bene, già va bene. Va bene, va bene, ok. Va bene, l'unica cosa è lo smitter che non mi piace. Ma sei liscio tu o ti stai aiutando con qualcosa, Massimiliano? No, no, io sono con i vatti, te lo ripeto, i vatti tutti chiusi, liscio. Ah, non hai aiuto, no, possiamo avere qualche aiuto. No, no, no, zero aiuti. Allora andando, dai, stai andando alla grande, considerando che sei abbastanza lontano da me, 9 più 15 è buono il segnale. Lo sai cos'è, ha fatto un lavoretto prima di mandarmela a questa radio, capito? Io ho detto che farmi un lavoretto, io ho detto di farmi i picchi di modulazione. Ma i picchi ce li hai belli, da 9.10 passi a 9.15. Quindi c'ha 2 watt di portante bianca, 2 watt di 1 watt. No, no, la radio sta funzionando alla grande, poi bisogna vedere la ricezione, non lo so. A livello di uscita sta andando alla grande, pulito, bella la radio. Cappa, va bene, ok, dai, riprendete voi, claro, che io poi mi sistemo un po' qua. Mando un messaggio a Francesco, un secondino, ve lo do a parlare, e poi già sono qua, là. Ok? Mi faccio la doccia. Buon tutto, dai, anche rimango un po', poi devo andare via. Vai, Cla. Ciao, Massimiliano, dopo, dai, stai andando magnificamente bene, non ti preoccupare, te l'ho già detto. Che hai fatto un'ottima scelta, va bene. Questi Galaxy veramente stanno facendo un grande lavoro, vabbè, bellissimo in radio, poi adesso ho posti, ho questa e il 430, boh. Tutto il resto già lo sai che abbiamo mandato al museo carta e adesso va bene così. Arrivato te il 430? No, no, no, ma la prossima settimana me lo spedisce, perché l'aveva mollato, che non è stato bene, poi stavo ultimando 2 lavori urgentissimi. Quindi ha consegnato quelli, l'ha ripreso mi sembra giovedì, no oggi così, oggi giovedì, mi sembra l'abbia ripreso lunedì, quindi mi ha detto questa settimana dedicava quella radio lì e poi me la spediva questa settimana. Quindi il problema comunque l'ha rilevato, l'ha risolto? Sì, ma problemi di componentistica non ce n'è, e più aveva più problemi di farsi contatti, spinette, spinettine, tutte queste cazzate qua, capito? Infatti le sta mettendo, te l'ho già detto, sta mettendo tutto il kit nuovo delle spinette, quello deve, alla fine, quando ha finito lo deve riallineare, e poi ha cambiato un paio di condensatori che erano in perdita e basta, però la radio era perfettamente funzionante. L'ha rifatta praticamente a nuovo, già va bene, almeno altri 10 anni dura. Vediamo se qualcuno vuole entrare sul 10, avanti se c'è qualcuno. Boh, c'è un segnale parlando lontano, Santiago 6-7, però non so chi sia, non capisco chi sia. Tu lo senti qua? Beh, no, riesco a capire perché sono sempre qua, cazzo. Sono tutti i canali che ci sono, non siedi. Limano Gozzieri, che sta sempre qua sul canale 10. Ehi, guarda, adesso cambiando discorso, se qualcuno c'ha i tappi del Bird, però per le HF. Chi te li dà i tappi del Bird? Quando senti a Marco, mi c'era Marco, lo fa Scorpio, senti a lui, io non so dove indicarti, lui magari più ne sa di più di queste cose, non lo so. Non so cosa, dove indicarti e non lo so, non so niente. Cosa, Gianfranco, chi ce l'aveva il Bird? Il Bird c'era un sacco di gente. C'era un sacco di gente. Prova a sentire Gianfranco, se sentire Gianfranco, se c'è qualcosa. Il Bird, che sappia io, già c'era un bel di gente. Boh, va vabbè dai, facciamo un paio di giri, perché quelli che ho io, i due tappi, sono per frequenze che non mi interessano. Beh, lì devi usare le frequenze quelle nostre. Va bene, non lo so, vabbè, sinceramente non so, non so dirti niente, non so indicarti niente. Conoscente Gianfranco, provo a parlarne con lui. Vabbè, non c'è problema. Faccio una sonnoletta, mi sono dormendo, dice, mamma mia che sacco, ho dormito male, poi sto dormendo male la notte, mi sveglio presto, adesso sta cambiando già male l'orario, mamma mia. A te male ti fa quando cambia l'orario? Sì, già. Alle 5 c'ho gli occhi aperti, aspetta l'otto. No, adesso a me mi prende male. Tutti gli anni di questo periodo vado in catalessi, come inizia la primavera, ui ui ui, sembra che mi abbiamo bastonato tutti i santi giorni. No, ma io a parte ho sempre dormito male, ma in questo periodo ancora di più, mi sveglio presto, mi riaddormento, mi dovrò svegliare, guarda, un sonno, non ho un sonno continuo, e sono tutta la giornata, dico, riesco a superarla, poi la sera dopo le 7 mi viene la sonnolenza, poi mi passa il sonno e la poi mi dovrà avere un sonno, cioè mi risveglio e mi dovrà dormire. Pronto? E chi è questo? Avanti. Avanti, chi è? Buonasera a tutti, Daniele da questa parte. Chi è? Ascolta Daniele, quando moduli con noi comincia a attaccare un poco di cose e mi si vende il socio. Ammazza Necco Daniele. Ascolta, se vuoi, sta soffrando qua. Ma Daniele è chi? Cazzo io. Quanto te sta arrivando Daniele mio, Roberto? È 9.40 qua c'è, però ma Daniele è il solito, ho giù preso un calimero io. Daniele, ma è buono quell'elicottero assesi? Ma vabbè, in macchina. In macchina, che la sua è? Io mi sono il tuo segnale, io non ci faccio lo Smith. Quanto a te sta arrivando? Sopra la D, sopra la D del 9.60 Guarda, non so qua. E un bel forte sì. Con Massimiliano ti devi regolare, che io non ne comprendo nulla che c'è la radio. Vai Massimiliano. No, aspetto tutto. Non liscio liscio, solo radio. Sì, solo radio, ma sei un bel alto. Abbassa un po' il Mickey Game. No, abbassa, ecco, non si comprende nulla. No, vabbè, capire si capisce. Però è un bel forte. Aspetta adesso. Guarda un po', 1, 2, 3. Già va bene adesso, ma parla con Massimiliano, faccio parlare con me. Ma niente, se ti vuoi forzare, che qui c'è gente, non le piacerebbe, magari facciamo due passaggi tra la regola, un po' la luce. Ehi, vai al 20, vai. Guarda, se Daniele ne manco si comprende la voce di Red, è tutta satura, è brutta. No, vabbè, è bellissima, io lo sto ascoltando col Galaxy, è bellissima. Tu devi togliere l'NB, tu c'hai un HF, devi togliere l'NB per ascoltarli bene. Io lo sento benissimo alla grande, solo che era troppo forte, troppo rimbombante. Ma se non mi dicevi che era Daniele, io non l'avevo riconosciuto, perché la voce è tutta satura, la sento, e poi il suo vum vum vum vum vum. Beh, se è vum vum vum, è l'ecco, deve funzionare così. Ehi, va bene, cosa sta facendo? Ma la casa sua, era stava arrivando 9.40 qua. Era. E sopra il DB era qua. Superate 9.30 sopra la D del DB, quindi 9.40. Ok, vediamo qua se c'è qualcuno su 10 che vuole entrare. Avanti qualcuno? Non si sente gente a parlare sotto, però non capisco quello che dicono. Ok, riprenditela tu qua. Ho detto che Ottieri, sta sempre qua sul canale 10, ma uno. A me arriva Santiago 7, se arriva un segnale basso no, non me lo copre. Poi parla solo con quello di Ottieri, quindi non sente nessuno, però non si accorge che disturba. Che avanti, avanti il brecco. Aspetta. Aspetta, lo richiamo io. Avanti il break. Vabbè, non ne ha voglia. Era più basso di te. Tu sei 9.15, segnale Claudio. Ben sentito, compagnia mia è di Claudio Sparbiero. Avanti Claudio per l'altro Claudio. Ehi, ehi, è positivo. Sì, Lima 1. Cioè, sai che nel canale 10 facciamo questione. Se c'è, ci sono segnali bassi, me li copri tu, perché il tuo segnale è Santiago 7 qua. Siccome tu parli solo con Ottieri, se gentilmente ti potevi spostare in un altro canale, forse meglio, solo questo. Tutti i canali di viso, ciao Cla, buonasera, ben ascoltato. Perché poco fa c'era uno in macchina, c'era Ottieri che stava parlando e non lo sentivo. C'era Lima 1 che me lo copriva. ciao Claudio, di nuovo. Grazie per gli asparagi. Sono andato domenica, mi pare al giubileo 10. Tutte le piante, tutte le asparagine erano già deturpate, non ho trovato niente. Lo sai quanto ce n'erano di pozzi per vedere, eppure non ne ho preso neanche uno. Ho trovato quella fonte che mi avevi detto tu e tuo babbo, però non mi sono fidato a bere, troppo lenta scende l'acqua, non vorrei che sia inquinata. Ok, di nuovo a te, che poi farai girare per Claudio. Avanti break. Guarda adesso, com'è la radio? Sì, la radio è abbastanza buona, però non è chiarissima, Daniele. Ti riconosco adesso, però ti sento un po' saturo. Ma se sono liscio? Non lo so, come che stai parlando, col microfono attaccato troppo alla bocca ti sento. Guarda adesso che è più lontano, 1, 2, 3, 4 e 5. Aspetta che provo a centrarti, sembra che sei fuori frequenza, un attimino. Mamma mia, come sto? Ciao Daniele, per me è ottimamente bene. Ok, se no provo, sì, l'altro microfono. Prova a parlare, Daniele. Guarda, adesso, 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè. No, centrato sei centrato, Daniele, però non mi piace la voce. Ascolta, Robè, con la radio non perché adesso ce l'ho lui, ma ce l'avevo io, l'ho mandata 20 giorni fa a lineare, per forza centrata. No, pensavo fosse fuori frequenza, ho provato a spostarmi, però è giusta, centrata. Però la sento la voce, tipo quando parli con il microfono attaccato troppo alla bocca, che non riesci a muovere le labbra bene, così lo sento. Prova a togliere l'NB a voler. L'NB? Sì. Ma io non metto nessun filtro, è pulito, naturale. No, per quello che l'ascolti così, se tu lo inserisci, però l'ascolti bene. Non c'è niente, l'NB è per i disturbi, non è per la modulazione. Ma sì, Roberto, toglielo se ce l'hai inserito. Cambia totalmente, che è un filtro l'NB, già per i rumori. Guarda quest'altro microfono che è il solito che uso io, cosa è? 1, 2, 3, 4 e 5. Lo sto ascoltando con l'altro parlante esterno, però ripeto che la modulazione per me non è chiara. Guarda adesso Robè, ho cambiato microfono, cos'è? No, prova a parlare, fa un passaggio più lungo. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5, la peppina fa il caffè, ora la cipolla. Daniel, sembra che sei saturo da parte mia, non ti sento bene. È chiara, capisco quello che stai dicendo, però no, non è pulita la modulazione. Ti sento tipo quando sei attaccato con qualcosa che ti taglia un po' di modulazione. Non lo saccio. Vabbè, Daniele, tra me e lui, cioè io sto usando un baracchino, lui sta usando un altro tipo di radio. Col mio baracchino, denominato Galaxy, stai arrivando benissimo. Segnale 9 più 30, sì, liscio, radio 5 perfetta, sia con un microfono che con l'altro. Non per contraddire Roberto, però io ti sento bene e giustamente per me va bene così. Steven, qua, il segnale da parte sua, da parte qua un po' più basso, però la radio è perfettamente 5, io ascolto benissimo. Prova con Muros, vediamo un po', vai per Muros, Daniele, che c'è anche Claudio da Muros. Claudio di Muros, mi ascolti? Va bene, ascolta, facciamo una prova con l'elicottero e ci chiacchia rock and roll. Ambascia arrivate lì. Qua a zero li ho messi, diciamo, dai, non ce n'è più. Comunque Daniele ti ha ascoltato anche con il ricevitore, lo stesso problemino, ti sento un pochettino saturo. Guarda adesso qua è tutto in partenza. 9.20 è qua. Quasi un po' più di 9.40, sì, dai. Va bene.